Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, noi siamo pronti, anche oggi abbiamo tante cose da dirci e raccontarci, insomma cercheremo di stare bene insieme e direi che possiamo iniziare in bellezza con l'auto shiatsu. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Fulvio Palombini, reumatologo e docente in fisioterapia all'Università La Sapienza di Roma, ospedale Sant'Andrea. Professore, buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. Senta professor Palombini, io ho una prova difficile per lei, perché non so se e quanto l'auto shiatsu possa essere indicato e soprattutto efficace, un po' per il caldo, un po' perché si cambia letto, ma a volte in questi periodi, proprio in vacanza, quando dovremmo riposarci, addormentarsi, prendere sonno è difficile. Sì. Si inizia a girarsi nel letto e poi a rigirarsi, poi viene anche un po' di nervoso, no? Sì, ecco, certo, perché il tempo passa e io sono lì con l'occhio sbarrato. Certo. Si può fare qualcosa? Si può fare qualcosa. Lo shiatsu è una tecnica che tende a calmare, a sedare, quindi un aiuto ce lo può dare sicuramente. Piccolo esercizio, inutile stare a rigirarsi. Ci mettiamo comodi nel letto, anche se fa caldo, cerchiamo di trovare un punto fresco della casa, se è possibile, e poi o sdraiati o anche seduti su una sedia, si fanno delle pressioni sulla linea mediana del cranio, proprio dove inizia l'attaccatura dei capelli, con tutte e due le mani insieme, le quattro dita. Questa volta non si fa con il pollice, lo shiatsu normalmente si fa con il pollice, in questo caso con le quattro dita, proprio sulla linea mediana del cranio, dell'attaccatura dei capelli, si fanno delle pressioni piuttosto intense, 1, 2, 3, 4, 5, e poi si lascia la pressione e poi si prosegue ancora 1, 2, 3, 4, 5, poi si lascia la pressione fino ad arrivare all'apice del cranio, un punto molto importante dove nella tecnica shiatsu si usa proprio per rilassare molto il corpo. Il cranio è uno dei punti che più, uno dei segmenti che più rilassa il corpo se viene premuto con questa intensità. Poi con il palmo delle mani, appena finito queste pressioni lungo la linea mediana, proprio con il palmo, quello che si chiama l'eminenza tenare, quella parte un po' carnosa sotto il pollice per intenderci, si fanno le pressioni piuttosto intense sulle tempie, simultaneamente, contemporaneamente, con tutte e due le mani su tutte e due le tempie, 1, 2, 3, 4, 5, si rilassa, 1, 2, 3, 4, 5, ancora rilassiamo, è ancora la terza volta, normalmente si fa tre volte di seguito, e poi si finisce con una tecnica un po' particolare, l'indice poggiato sopra il medio e con solo il polpastrello del medio, aiutandosi anche con l'indice, delle pressioni proprio al lato del naso, con una certa intensità, si deve in questo caso arrivare a sentire un pochino di dolore, si preme per 5 secondi con una certa intensità e poi si rilassa, e poi si rilassa ancora per finire l'esercizio con delle dolci pressioni proprio sopra gli occhi, morbide, sempre per 5 secondi, 1, 2, 3, 4, 5 e si rilassa. 2-3 respirazioni profonde e probabilmente un pochino d'aiuto l'abbiamo, vi sembrerà strano, ma vedrete che il corpo avrà una reazione particolare, si rilasserà e io mi auguro che si possa dormire un pochino meglio. Professor Palombini, grazie per essere stato con noi, noi ci sentiamo la prossima settimana, mentre insieme ai nostri ascoltatori andiamo a sentire il nostro sommario. Mal di testa ne soffrono anche i bambini. Scegli con noi lo spazzolino giusto. Vestiti, evitate quelli troppo stretti. Mal di testa, anche i bambini ne soffrono, ma spesso, specie se sono piccoli, non hanno le parole per raccontarlo. Proveremo a farlo noi con l'aiuto di tanti ospiti. Non bisogna trascurare il fatto che, come capita negli adulti, anche per i piccoli il mal di testa influisce sulla qualità di vita, limita la possibilità di apprendere, giocare, divertirsi, insomma influenza la vita di relazione e anche il rendimento scolastico. Per questo è importante non sottovalutarlo. Vi presento subito gli ospiti che sono tutti in studio con me. Inizio dal professor Gianvincenzo Zucco, Cotti, ordinario di pediatria presso la clinica pediatrica all'ospedale Sacco. Professore, buongiorno e benvenuto. Professore, mi aiuti subito a definire un po' le dimensioni del problema. Lo facciamo prima di salutare gli altri ospiti che sono seduti accanto a noi. Beh, ha detto molto bene lei, nel senso che la cefalea mal di testa è un disturbo molto ricorrente anche in età pediatrica, e questo spaventa molto ovviamente i genitori ed è sicuramente uno dei motivi di accesso frequente nei pronto soccorso e anche negli ambulatori dei pediatri. E bisogna ricordare come circa il 25-30% dei bambini in età scolare soffrono comunque di mal di testa, e secondo anche studi abbastanza recenti, ad esempio uno studio norvegese che ha preso in considerazione 9.000 soggetti in età adolescenziale, si è visto che più del 70% avevano sofferto comunque di mal di testa almeno una volta nei primi anni di vita. Quindi sicuramente un disturbo molto molto importante, ricorrente e che alcune volte sicuramente deve essere approfondito. Per questo oggi proprio a Essere Benessere abbiamo deciso di occuparcene. In studio con noi abbiamo anche la dottoressa Veronica Saletti, che è neuropsichiatra infantile all'Istituto BESS di Milano. Dottoressa, buongiorno, grazie buongiorno. Per essere con noi. Aggiungiamo un altro dato importante, che età di solito si manifesta la cefalea nei bambini? Il professor Zuccotti ha già anticipato in età scolare, ma ci sono delle età particolarmente a rischio, e soprattutto qual è la forma di cefalea più diffusa? Parlando di cefalea negli adulti, abbiamo detto che tante volte che ce ne sono tanti tipi, più di 200 forme, forse sono anche di più. Qual è quella più tipica dei bambini? Allora, sicuramente tutti i bambini di qualsiasi età possono soffrire di cefalea. È comune, anche se non frequente, anche in età prescolare, quindi già a partire dai 3 anni può essere riportata la cefalea. Ovviamente i bambini più piccoli soffrono di cefalea, ma hanno spesso delle caratteristiche differenti. Si parla di sindromi periodiche dell'infanzia prevalentemente, dove il disturbo della cefalea può essere accompagnato o sostituito da sintomi prevalentemente di tipo gastrointestinale. Sì. Si parla di vomito ciclico, si parla di vertigine parossistica benigna, si parla di emicrania addominale. Sicuramente le cefalee, come sono più comunemente intese, sono più frequenti in età scolare e aumentano con l'aumentare dell'età del bambino. In età scolare sono le forme primarie quelle a essere maggiormente rappresentate, dove per forme primarie si intendono quelle in cui il sintomo è la malattia, cioè in cui non è riconoscibile una causa organica del disturbo. Le forme secondarie viceversa sono fortunatamente meno frequenti e possono riconoscere cause diverse di variabili gravità. Dai bambini passerei agli adolescenti, di cui parleremo insieme alla dottoressa Susanna Usai, neurologa sempre all'Istituto del BES. Dottoressa, grazie anche a lei per essere qui con noi. È vero che sono in aumento i casi di cefalea tra gli adolescenti, che a farne le spese sono soprattutto le ragazze? Buongiorno. Sì, è vero, perché con l'aumentare dell'età in età adolescenziale la prevalenza delle forme primarie, in particolare dell'emicrania senza aura e della cefalea di tipo tensivo, aumenta notevolmente, si arriva fino a un 24% circa di prevalenza. Le ragazze sono sicuramente più colpite a questa età rispetto ai ragazzi, e questo è legato verosimilmente alla fase puberale, quindi al ciclo mestruale, alla fase ormonale, che influenza la prevalenza di questo tipo di cefalea. Ci sono tanti fattori che possono scatenare un attacco di cefalea e tante cause che possono spiegarlo. Ne parleremo nel corso della nostra trasmissione, per dare ai genitori in ascolto le informazioni necessarie per aiutare il bambino, il ragazzo, a venire un po' a capo del problema, passando anche naturalmente attraverso lo stile di vita. Ma oggi vorrei parlarvi anche di cefalee chirurgiche, in altre parole di mal di testa che possono essere risolti con interventi ad hoc. In studio con noi abbiamo la dottoressa Valentini, che è un neurochirurgo sempre all'Istituto BESS, che si occupa specificatamente di patologie pediatriche e malformazioni. Dottoressa Valentini, buongiorno. Buongiorno, Nicoletta. Allora, esistono anche delle cefalee che richiedono l'intervento del chirurgo? Sì. Neurochirurgo in questo caso. In primo luogo vorrei smitizzare un discorso importante, che è quello dell'incidenza di queste cefalee. Cioè, rispetto al problema cefalee, che è molto frequente, le cefalee causate da un problema che poi richiederà un intervento chirurgico sono essenzialmente cefalee legate ad un'aumentata pressione intracranica. Non sono senza sintomi, cioè sono cefalee che si accompagnano a deficit neurologici come difficoltà di movimento oculare, a vomito, sono cefalee che non rispondono ai comuni analgesici, e le cause che sottostanno a questo tipo di cefalea sono cause che sono rare, come per esempio i tumori cerebrali, che però non rappresentano più del 3 per 100.000 come incidenza. Grazie dottoressa Valentini per questa precisazione, perché le mamme apprensive come me, quando, e il professor sicuramente può confermare, quando il mal di testa nel bambino non passa e non si riesce proprio a risolvere, si pensa subito a qualche cosa di grave, quindi invece i casi sono veramente una minoranza esigua. Assolutamente, le nostre colleghe oncologhe dell'Istituto dei Tumori ci hanno dato come percentuale di nuovi casi diagnosticati di tumori all'anno in Italia, tumori cerebrali, come 400 nuovi casi su tutta la popolazione italiana, quindi questo ci focalizza bene su qual è la dimensione del problema. Esistono poi delle cefalee causate dalle malformazioni che possono essere un pochino più frequenti, si parla di un 4-5 per mille, non tutte queste hanno bisogno di trattamento chirurgico. Una in particolare che è la malformazione di Chiari. La malformazione di Chiari è stata identificata per la prima volta alla fine dell'Ottocento e si tratta di una patologia del passaggio tra il cranio e il midollo, per cui c'è una stenosi a questo livello, il liquore non riesce a passare tra cranio e midollo e si creano delle situazioni di pressione aumentata intracranica, è caratterizzata da un tipo di cefalea molto specifica, che è la cefalea che insorge con il premito, gli sforzi, l'esercizio fisico, a differenza delle cefalee che di solito col riposo si passano, tende a non comparire, compare soprattutto durante la notte, dopo il riposo notturno, sveglia di notte i piccolini e è una cefalea che non risponde ai normali analgesici. Quindi con delle caratteristiche particolari. Insomma, vi abbiamo dato un'anticipazione dei temi, degli aspetti che tratteremo nel corso della trasmissione. Restate con noi, i nostri esperti naturalmente sono a vostra disposizione. Una mela al giorno. Voltiamo pagina, parliamo di un compagno prezioso per la nostra igiene orale, lo spazzolino da denti. Sceglierlo bene è fondamentale, è veramente il primo passo per avere denti sani e belli. In linea con noi per orientarci nella scelta giusta la dottoressa Adele Fantoni, chirurgo specialista in odontoiatria e ortodonzia infantile presso l'azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento a Milano. Dottoressa, bentornata. Buongiorno. Dottoressa, allora, iniziamo, partiamo dalle setole, meglio naturali o artificiali? Artificiali. Senza dubbio. Senza dubbio, perché sono fabbricate, usiamo un termine molto semplice, la ricerca da parte delle case produttrici è talmente avanzata che il prodotto è assolutamente sicuro e idoneo all'uso. Quindi non dobbiamo avere dubbi. Il naturale non è sinonimo di migliore. Ciò che è prodotto, tra virgolette, artificialmente, cioè la setola artificiale, una setola ad alta tecnologia, quindi va benissimo. Andiamo alle variabili, morbide, medie o dure? Morbido, perché così la pulizia, diciamo, per quanto ognuno di noi voglia essere accurato, a volte fin troppo, non si traduca in un traumatismo. Cioè, se lo spazzolino, la setola è dura, può abradere sia la superficie dentale nella zona delicata del colletto, sia la gengiva vicina che lo ricopre e quindi portarne una perdita. Essere bravi, essere efficaci, vuol dire anche essere delicati, non per questo meno scrupolosi. Dottoressa, anche la forma della testina può fare la differenza. Quanto deve essere grande? Lo spazzolino più è piccolo e meglio, va in tutti diciamo i recessi, ovunque nella bocca. La bocca è una piccola cavità, soprattutto i denti dietro, i più difficili da pulire, sono tra la lingua e le guance. Sì. Uno strumento ingombrante è uno strumento che può anche causare un rifiuto, un conato di vomito, una difficoltà, un dolore. È meglio piccolo. La tecnologia è intervenuta, infatti, a fianco dello spazzolino manuale abbiamo lo spazzolino elettrico. Le piace, dottoressa Fantoni? Lo consiglia? Io consiglio qualunque strumento poi si riveli efficace. È dal rapporto poi tra paziente, inteso appunto paziente odontoiatrico, col suo odontoiatro o il suo igienista, che il risultato dell'igiene condotta con spazzolino normale, con spazzolino elettrico, potrà essere testato. Quindi ognuno deve scegliere poi lo strumento con cui riesce a ottenere il miglior risultato. Sicuramente questo tipo di spazzolino è particolarmente indicato a chi ha problemi di manualità, quindi sia bambini, certo, sia adulti, anche anziani che hanno avuto qualche problema con la muscolatura o con la motricità della mano. Dottoressa, in questa sorta di bigino dello spazzolino, fa anche rima, penserei ai bambini, anche per loro setole artificiali, medie e spazzolini piccoli? Spazzolini commisurati all'età, difatti oramai tutte le case produttrici differenziano gli spazzolini come dimensioni per età, diciamo dai 0,3. Dai 6 e 12 addirittura c'è chi fa più spazzolini di dimensioni diverse. Ogni quanto si cambia lo spazzolino? Quando le setole... Ogni 3-4 mesi, quando lo spazzolino si apre troppo, diciamo così, e troppo frequentemente, vuol dire che siamo troppo violenti e quindi bisogna cambiare un pochino metodologia o che forse lo spazzolino non è di buona qualità. Dottoressa Fantoni, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata e buona spazzolatura. Grazie a voi. Buona giornata. Essere benessere. Grazie. Buona giornata. Pronto soccorso. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di mal di testa nei bambini e negli adolescenti, quindi se avete figli di età compresa tra i 3 e i 18 anni che soffrono di attacchi sporadici o ripetuti di mal di testa, restate con noi e approfittate dei nostri esperti. Professor Zuccotti, dietro il mal di testa di un bambino possono esserci cause tra loro molto diverse, pensiamo ad esempio al caso in cui la cefalea preannuncia una febbre, un'influenza, una malattia infettiva. In età scolare invece il mal di testa, almeno per noi mamme, fa pensare ad un disturbo visivo, non vedrà bene alla lavagna, allora si sforza e gli viene mal di testa. Un po' a volte abbiamo anche il timore che il mal di testa sia un po' un, tra virgolette, una scusa del bambino che si trova ad affrontare magari dei compiti più grandi di lui, un po' come succede con il mal di pancia, che tante volte proprio racconta un piccolo disagio del bambino. Professore, come facciamo ad orientarci? Ma quello che ha detto è tutto vero, nel senso che il mal di testa può essere un pochettino tutte queste cose. Sicuramente la causa più importante, forse più ricorrente, sono i mal di testa che si accompagnano a infezioni. E questo, per esempio, quando c'è la febbre, che con il mal di testa la mamma subito pensa, oddio mio, avrà la meningite, quindi qualche cosa di importante, di drammatico. Quando magari ha mal di testa e non ha la febbre, può pensare a quello che dicevamo prima, magari avrà qualche cosa, no, di brutto e qualcosa che mi possa far preoccupare. Quindi bisogna, credo che la funzione del pediatra sia quella soprattutto di, come spesso dovrebbe fare, di essere rassicurante e quindi fare anche molta educazione da questo punto di vista. Certo. E quindi non essere il primo a in qualche modo a spaventarsi più del genitore, e quindi questo vorrebbe dire continuare a chiedere o a richiedere troppi esami. Questo farebbe, da una parte, sarebbe un grossissimo errore per sia nei confronti della famiglia, che quindi in qualche modo vorrebbe dire, oddio mio, se il medico è preoccupato e mi chiede qualche cosa, forse sta pensando qualcosa. Dall'altra parte, il bambino, se magari in età più grandicello, e quindi utilizza magari il sintomo cefalea per somatizzare qualche cosa, quindi espressione di qualche disturbo, qualche disagio, potrebbe ancora una volta avvallare in lui l'idea che forse è riuscito a cogliere nel segno, preoccupare abbastanza tutti quanti, tanto che anche lo stesso medico chiede qualche esame. Quindi bisogna sicuramente molto fare una grande opera di educazione, perché abbiamo sentito i numeri sono tanti, le percentuali di bambini che ne soffrono sono tanti, se tutti vengono aggrediti con esami, credo che sarebbe una tragedia. Professore. Dottoressa Saletti, la familiarità conta, immagini. Figli di genitori cefalagici hanno maggiori possibilità di soffrire di mal di testa? Sicuramente sì, si calcola che circa il 50% dei bambini cefalagici, parliamo ovviamente delle forme di cefalea primaria e in particolare delle forme di emicrania, hanno un genitore affetto da cefalea. In genere si tratta della mamma, però non bisogna fare l'errore di pensare che ci sia in causa un meccanismo di tipo ereditario, perché non bisogna dimenticare che i fattori ambientali, anche i fattori psicologici, hanno un ruolo molto importante. Si può aggiungere una cosa, che in genere i genitori cefalalgici, essendo maggiormente allertati al problema, fanno sì che il bambino non viva quelle abitudini che di solito possono favorire l'insorgenza della cefalea. Cioè, mi spiego meglio. Si conosce che abitudini di vita scorrette, quindi non so, sonno in eccesso o in difetto, piuttosto che abitudini alimentari scorrette, possono essere in alcuni casi dei fattori scatenanti rispetto sì. all'attacco di cefalea. Quindi un genitore cefalalgico di solito, essendo preparato, queste più, cose le sa. Esatto, le sa ed evita e cerca di evitarle anche per il figlio. Quindi in un certo senso è protettivo, esatto, avere in un, certo un papà o una mamma, insomma, a volte che soffre di cefalea. Sì, a volte anche eccessivamente allarmante in realtà, perché talvolta il genitore immagina che anche il figlio necessariamente debba rivivere le stesse esperienze, cosa che non è vera, ripeto, perché non c'è un meccanismo ereditario preciso e quindi si tratta di due persone diverse e con delle caratteristiche diverse. Dottoressa Usai, la dottoressa Saletti ha iniziato ad anticipare alcuni dei fattori scatenanti, oppure se vogliamo chiamarle un po' le cattive abitudini che possono influenzare e scatenare un attacco di cefalea. Noi mamme spesso diamo la colpa alla TV, al computer, all'affaticamento. Andiamo con lei nella fascia dell'adolescenza e quindi i ragazzi sono più esposti e meno controllati dai genitori. Come intervenire? Come leggere il mal di testa di un ragazzino, di una ragazzina? Allora, diciamo che la prima regola importante per trattare sia i bambini che gli adolescenti che soffrono di cefalea è, come diceva la dottoressa Saletti, orientare verso un comportamento corretto. Sì. Le ore di sonno, per esempio, sono fondamentali. Molto Quanto spesso deve dormire un ragazzino? Almeno 9-10 ore dovrebbe dormire per notte. Poi ci sono un po'... Poi è evidente che per gli adolescenti questo orario, insomma, va ridimensionato un pochino, però spesso l'adolescente, proprio perché è meno controllabile, sta nella sua stanza, esatto, e magari guarda la televisione, sta al computer, chatta, è meno controllabile e quindi magari dorme meno ore per notte. Un'altra cosa importante sono le abitudini alimentari. Spesso gli adolescenti mangiano male o saltano i pasti, la colazione è raramente uno dei pasti fondamentali per questi pazienti, e invece questa è il primo gradino per la prevenzione. E quindi assolutamente riabituare anche i ragazzi, abituare i bambini, quindi, perché fin quando sono piccoli, ad avere una vita, uno stile di vita regolare, esatto. Che vuol dire sonno, il numero di ore adeguate, esatto. A seconda un po' del bambino, ci sono brevi dormitori e lunghi dormitori, ma insomma anche lì i geni dicono la loro, e comunque sicuramente l'alimentazione conta. Ci sono degli alimenti che sono più a rischio di altri? Classicamente ci sono dei cibi che possono peggiorare la frequenza degli episodi emicranici, non essere la causa di questi episodi, certo. Questa è una distinzione che va fatta. Anche per l'adulto comunque i cibi sono gli stessi, classicamente il cioccolato, i formaggi stagionati, gli insaccati, il vino rosso, ma questo spero non condizioni i nostri adolescenti e i bimbi. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di mal di testa, ne soffrono anche i bambini, gli adolescenti. Come sempre, il primo passo per risolvere il problema è partire da una diagnosi corretta. I nostri esperti sono a vostra disposizione, potete anche contattarle scrivendoci a esserebenessere@radio24.it. L'alimentazione, l'attività fisica, vorrei farmi aiutare dai miei esperti per aprire, perché ci sono anche delle ricerche molto interessanti, alcune legano ad esempio il sovrappeso ad un maggior rischio di cefalea nei ragazzi. Allora inizierei dal professor Zuccotti. Che cosa c'è di nuovo? Che cosa avete scoperto? Perché lo stile di vita è così importante? Anche per la cefalea sembrerebbe esserci questa associazione tra sovrappeso, obesità e comunque maggior rischio di soffrire di mal di testa. In una nostra valutazione, dicevamo prima all'inizio, di come ci siano questi dati epidemiologici norvegesi, eccetera. Noi spesso in Italia non abbiamo dati epidemiologici, ci dobbiamo sempre rivolgere un pochettino all'estero, agli stranieri. Però abbiamo fatto un'indagine abbastanza, credo, interessante, nel senso che abbiamo coinvolto due scuole milanesi, abbiamo distribuito 1500 questionari che sono articolati, dove abbiamo ottenuto risultati che vanno dall'aspetto della familiare, dall'educazione alimentare, dal disagio psicosociale, al consumo di farmaci, a una serie di cose credo che siano che saranno sicuramente interessanti, potranno dare anche, se con numeri meno importanti di quei 9.000, comunque su 1.500, anche qualche cosa, un disegno di quello che è la realtà milanese. Comunque, nei nostri primi dati emerge per esempio che l'allattamento al seno, che se ne fa tanto discutere, che ha sicuramente una serie di vantaggi sulla prevenzione delle malattie cronico-degenerative, anche sul sviluppo di cefalea, può avere una prevenzione. Quindi i bambini allattati al seno soffrono meno di cefalea rispetto ai bambini allattati artificialmente. Ecco, questa è una buona indicazione per le mamme che stanno allattando i loro bambini. Dottoressa Usai, voleva aggiungere qualcosa riguardo lo stile di vita? Sì, volevo sottolineare l'importanza comunque di un'attività fisica regolare in età pediatrico giovanile, proprio perché spesso questi ragazzi stanno davanti al computer, davanti alla televisione o seduti a scuola per molte ore e l'attività fisica non fa parte della loro giornata. Sì, allora... purtroppo sì, questo è vero, sempre è drammaticamente vero. Anche il ragazzo che soffre di mal di testa può fare attività fisica. Deve fare attività fisica. Quindi perché ci sono delle forme e terapeutica. Assolutamente sì. Dottoressa Saletti, io con lei vorrei ritornare rapidamente, anche se poi lo faremo approfondendo con il papà che ci ha raggiunto in studio, parlare di questo del disagio. Tante volte il mal di testa è proprio un modo con cui il ragazzo, il bambino, racconta la sua difficoltà nella quotidianità, vuoi perché sta vivendo delle situazioni particolarmente pesanti, vuoi perché si sente inadeguato, insomma anche questo è un campanello d'allarme, non è da così liquidare con non vuole andare a scuola, sta facendo i capricci, sta inventando una bugia. Dottoressa. Sicuramente, soprattutto per le forme di cefalea tensiva, questo è vero, si riconoscono spesso delle motivazioni di ordine psicologico e direi che il medico, ma anche il genitore, deve essere molto attento al bambino, cioè mettersi proprio in una posizione di ascolto rispetto al bambino, perché molto spesso la cefalea esprime un sintomo, come diceva lei giustamente, di disagio rispetto a magari relazioni conflittuali familiari, rispetto a relazioni sociali coi pari non adeguate, rispetto magari a una vita scolastica particolarmente stressante, insoddisfacente. Sì, quindi sicuramente direi che la cosa importante è mettersi in una posizione di ascolto nei confronti di questi bambini cefalalgici. Quando si parla di dolore, di mal di testa, il bambino si lamenta, il ragazzo si lamenta, certo che noi mamme siamo, insomma, i farmaci ci fanno paura, no? Si cerca in qualche modo di dire riposati, no? Svaghiamoci un po', facciamo una passeggiata, viene istintivo, no? Suggerirlo. Possiamo però dare dei consigli su un attacco acuto, professore, lei che cosa suggerisce? Se il bambino ha male, si lamenta, si dà qualche cosa, si dà un farmaco oppure si aspetta? No, io credo che sia corretto dare un farmaco. Io credo che nella prima fase bisogna assolutamente credere che il bambino abbia veramente mal di testa. Quindi è vero che ci sono tutti questi disagi, questi disturbi. Purtroppo credo che tutte le pediatrie siano abbastanza piene di bambini ricoverati con questi, con una serie di sintomi che sono che rispecchiano questo disagio che è sempre più importante nella nostra vita. Però credo che all'inizio sia opportuno dare un antidolorifico, il paracetamolo è sicuramente il farmaco più utilizzato e quindi quello che tutto sommato è anche ben tollerato. Ovviamente bisogna sempre anche qui farsi consigliare i dosaggi adeguati, perché è vero che è difficile andare in sovradosaggio di paracetamolo, ma può anche accadere. Una volta che quello che abbiamo già sentito dai colleghi precedenti, si sono fatte una serie di valutazioni, una serie di giudizi e si può pensare che quello che lamenta il bambino sia in realtà un disturbo veramente è psicosomatico, allora a questo punto si può magari d'accordo con la famiglia pensare di offrire anche dei placebi, qualche cosa di alternativo, ma all'inizio bisogna sempre credere al sintomo, bisogna trattarlo come tale e dopo di conseguenza poi fare i successivi passi che porteranno a una formulazione diagnostica, si spera, la più precisa possibile. Allora io entrerei in famiglia di papà Grignoli, che è qua in studio con noi, è entrato nel nostro studio, grazie per essere con noi. Prego. Che ci racconta un po' la sua storia, la storia del suo bambino che ha avuto questo problema di mal di testa e quindi questo ha comportato una serie di problemi nella gestione, nella diagnosi, nell'interpretazione di questo problema e anche, io penso, ha modificato in qualche modo le relazioni del bambino, perché un bambino che soffre, un bambino che gioco forza si vuole in qualche modo estraniare, il dolore non aiuta certo le relazioni. Signor Grignoli, ci racconti che cosa le è successo? Prima di tutto noi eravamo totalmente impreparati, perché né io né mia moglie abbiamo mai sofferto di mal di testa. Ai primi sintomi, intorno ai 4 anni, abbiamo iniziato a cercare di capire quale fosse il problema. Tant'è che oltre al mal di testa aveva anche episodi di vomito, quindi abbiamo in un primo tempo sospettato che il mal di testa fosse causato da un problema digestivo. Certo. E non viceversa. Poi abbiamo iniziato chiaramente a fare i nostri pellegrinaggi, quindi rivolgerci ai medici di famiglia e sono trascorsi anni senza riuscire a risolvere il problema. Abbiamo usato dei farmaci ovviamente, cercando di alleviare se non altro il dolore. Però di fondo la nostra preparazione ha forse compromesso il nostro intervento immediato. Sta di fatto che oggi Luca ha 15 anni e da 3 anni fino ad oggi questo mal di testa lo accompagna. Nel suo caso poi abbiamo individuato una causa, certo ci abbiamo messo tanto. Però alla fine siete arrivati. Siamo arrivati, ci abbiamo messo tanto, anche perché probabilmente i neurologi ai quali siamo rivolti ci hanno sempre, tra virgolette, liquidato con una cefalea di tipo tensivo, comunque dovuta magari a stress o problemi di vista o quant'altro. Certo. Allora, gli inizi sono stati difficili, pellegrinaggio da un medico all'altro, poi è arrivato dopo anni la diagnosi. Sì. Una diagnosi precisa. Sì, in realtà verso i 13 anni ci sono dei cambiamenti nel suo mal di testa. Prima aveva una frequenza ciclica quindicinale, tant'è che potevamo addirittura prevedere l'insorgenza, l'arrivo del mal di testa. Poi ha iniziato a essere giornaliero questo mal di testa, e in più si è aggiunto un dolore alla parte posteriore del collo, alla nuca, durante lo sforzo di Valsalva, quindi in fase di evacuazione. Sì. Questi erano sintomi particolari, per cui si usciva dal normale mal di testa in questo caso invece i medici ci hanno indirizzato nel fare quegli accertamenti diagnostici, quindi la risonanza, che ci ha permesso di scoprire che c'era, nel caso di Luca, una chiari. Dottoressa Valentini, lei ha ascoltato, d'altronde, essendo un neurochirurga, lei interviene in sala operatoria. Abbiamo cercato nella nostra trasmissione di capire le cause, suggerire lo stile di vita più adatto per rallentare, evitare gli attacchi, ma di fronte ad una diagnosi così specifica la parola passa a lei. Luca ha ricevuto una diagnosi, questo mal di testa, il papà ci ha raccontato, è cambiato. Che cos'è la sindrome di cui stiamo parlando, la sindrome di Chiari? È sempre necessario l'intervento? No, in realtà la malformazione di Chiari è una malformazione che nasce nel periodo, quindi si sviluppa durante la fase di sviluppo del cranio, quindi è una cosa congenita, si parla di una patologia congenita. È una patologia che viene diagnosticata e crea problemi, almeno così succedeva fino agli anni 70-80, nell'adulto. Sì. Venivano in realtà diagnosticati adulti. Adesso l'incidenza nei bambini piccoli è aumentata. Si parla comunque sempre di una patologia molto rara. Per dare un'idea, una nostra casistica di bambini operati è molto ampia, riguarda un centinaio di casi, quindi le serie di questo tipo di patologia sono comunque molto ristrette, quelli che richiedono un intervento chirurgico. Però si è notato un nettissimo incremento dei casi diagnosticati nel bambino negli ultimi anni. Questo è un grosso vantaggio clinico, perché un tempo venivano sottoposti ad accertamenti neuroradiologici solo pazienti con gravi deficit neurologici. Quindi quando questo blocco, questa discesa delle tonsille cerebellari, che sono non sono le tonsille che troviamo nel faringe, ma sono nella parte inferiore del cervelletto, a livello del canale vertebrale, comportava questo blocco del liquido, si sviluppava progressivamente una raccolta di liquido nel midollo. E quindi i pazienti, dopo un'iniziale fase di mal di testa, vertigini, svenimenti, nella fase infantile, adolescenziale, arrivavano nella fase adulta ad avere dei disturbi di movimento delle braccia e delle gambe, e lì veniva posta la diagnosi. Spesso il midollo non era in grado di recuperare, per cui i pazienti operati tanti anni fa spesso sono gravemente deficitari. Questo è il motivo per cui sono nate delle associazioni un po' in tutto il mondo. Per dire ai medici, lavorate su questo aspetto, e soprattutto penso, dottoressa Valentini, per evitare anche che ci siano delle operazioni là dove non sono necessarie. Assolutamente sì, perché c'è sicuramente il problema dell'incremento di diagnosi che ci porta a vedere dei casi nuovi e non sappiamo ancora nulla sulla storia naturale della patologia. Ma queste associazioni ci spingono anche a informare i medici di base, informare i pediatri sul fatto che questa malattia cosiddetta rara esiste, perché spesso si trovano di fronte i medici stessi dei pazienti che sono più informati di loro sulla loro patologia, perché hanno dei sintomi vaghi e passano anni e anni in cui vengono etichettati come pazienti di tipo psichiatrico. Molti di loro vengono trattati con psicofarmaci perché hanno questi sintomi vaghi di dolore nucale, svenimenti, difficoltà dell'equilibrio e cefalea, che possono confondersi con dei disturbi di tipo psicologico. E adesso spazio al binomio donna e moda. Lo facciamo con la dottoressa Lidia Rotavender di ALT, l'Associazione per la lotta alla trombosi. Dottoressa Rotavender, buongiorno. Buongiorno. Le mie ascoltatrici si chiederanno che cosa c'entra la trombosi con la moda, augurandosi che non sia una patologia che sta diventando di moda. Purtroppo sì, è di moda, nel senso che è una patologia che è stata sempre molto trascurata e soprattutto non diagnosticata, perché spesso non sospettata. Quando parliamo di trombosi, soprattutto per quanto riguarda le gambe, parliamo di eventi che una volta venivano chiamati flebite, sì, o che si possono correlare con la presenza di vene varicose, ed è una patologia totalmente trascurata, ma solo perché siamo fatti molto bene, qualche volta la trombosi comincia e da sola si risolve senza dare grandi sintomi, qualche per fortuna volta dare sintomi drammatici invece. Con noi una che dicevo che parleremo di moda, una che di moda se ne intende direi parecchio, Cinzia Felicetti, giornalista, scrittrice, autrice di Io compro da sola, guida la giornata al guardaroba perfetto, che sta diventando una piccola bibbia per chi si vuole muovere con garbo ed eleganza tra le varie tendenze della moda. Cinzia, ciao! Buongiorno a tutte. Allora Cinzia, tu ci devi aiutare e ci faremo soprattutto anche aiutare dalla dottoressa Rota, perché secondo una ricerca, dottoressa Rota, 8 donne su 10 sacrificano il benessere pur di essere alla moda. Mi spiego: jeans attillati per chi se le può permettere, oppure abiti fascianti, collana reggenti, biancheria intima un po' troppo strettina. Sono tutti quei piccoli e vecchi espedienti che si utilizzano, no? Per sentirsi più belli, per apparire più belli, per sentirsi alla moda. Sono anche efficaci, dice lei. Ecco, è un po' il detto: se bella vuoi apparire un po', devi soffrire. Ma dottoressa Rota, a soffrirne è soprattutto la nostra circolazione, vero? Sì, guarda, è un concetto molto semplice. Sì. Il sangue deve circolare e nelle vene in particolare, che sono più fragili rispetto alle arterie perché sono un pochino meno forti, il sangue torna dalla periferia verso il cuore per andare a ripulirsi. Sì. Se noi mettiamo un indumento molto stretto e soprattutto a lungo, per un tempo piuttosto lungo, per esempio il jeans molto stretto all'inguine, sì, con la biancheria al di sotto altrettanto stretta, e magari infiliamo il jeans nello stivale, non è detto che per una forza c'è l'esplosiva, una trombosi naturalmente, ma c'è sicuramente uno stato di sofferenza del ritorno del sangue al cuore. Siccome il nostro sangue deve scorrere veloce, perché se rallenta la corsa potrebbe in alcuni casi dare origine alla formazione di questi piccoli coaguli dentro al vaso che si trasformano, che sono poi trombi, non tutte rischiano nello stesso modo, ma stiamo parlando di giovani donne che molto spesso pigliano la pillola, che può essere un moltiplicatore, diciamo che aumenta un po' la densità del sangue, se sì, mi passa questo linguaggio molto semplice, e molte donne anche fumano e questo anche aumenta la la densità del sangue. Quindi se mettiamo insieme tutti questi fattori, direi che il concetto è: se una persona proviene da una famiglia dove non c'è una grande prevalenza di casi, di eventi di trombosi, di flebiti, sì, di embolia, di infarti, da una famiglia sana dal punto di vista vascolare, non prende la pillola, non fuma, probabilmente in termini statistici si può permettere più di un'altra di utilizzare questi espedienti di moda che sono straordinariamente, non so, deliziosi, immagino che... Oppure si può anche dire, dottoressa Rota, se proprio vuoi il jeans attillato e sei invece un po' a rischio, almeno smetti di fumare. Ecco, quello potrebbe essere il consiglio. Non mettiamo insieme tutto, ecco, non mettiamo sulla bilancia troppa roba, perché noi non, dal punto di vista medico non vogliamo mai spaventare le persone, però è certo ed è vero che ci sono alcune fasi nell'età della donna in cui questo sangue tende a coagulare un po' più del normale, e queste sono la gravidanza, il dopo gravidanza, l'interruzione di gravidanza, la pillola anticoncezionale, l'obesità soprattutto se è addominale, e l'effetto elastico provocato dagli indumenti. La stessa cosa avviene nella cosiddetta sindrome da classe economica. Lei sa che si è parlato molto di persone, sì, che volando a lungo, e si chiama classe economica perché si dice che se si è più stretti nella classe economica, la verità è che succede anche a quelli che volano in business, sì, solo che sono meno numerosi, però c'è una correlazione fra il volo, quantomeno è sospettata una correlazione fra il volo aereo lungo e la possibilità che il sangue coaguli. Allora, il concetto è sempre quello del buon senso, sì, è una questione di tempo e di quantità e di quante più cose si mettono insieme. Se una persona è sovrappeso, fuma, prende la pillola e ha già le vene magari un pochino esposte sulle gambe, si vedono, sono un pochino superficializzate, sì, sono un po' tortuose, ecco, quella forse è una persona che deve stare particolarmente attenta. D'altra parte, secondo me, si sente, quando le gambe diventano pesanti, i sintomi della circolazione. Le avvertiamo, si sì. possono sentire, bisogna avere non occorre, i sensori aperti. Certo, però, non occorre essere un medico per capire quando esatto. qualche cosa nelle nostre gambe inizia a non funzionare come si deve. Il nostro corpo ci dà dei segnali, basta, dobbiamo solo avere le orecchie aperte per ascoltarle. Ecco, ma dato che abbiamo parlato di abiti un po' strizzati, fascianti, jeans, volevo chiedere un aiuto a Cinzia, perché noi ci sottoponiamo a queste sorte di torture, perché insomma il jeans molto stretto non è comodo, no? No, infatti, per apparire più magre, ma funziona davvero? Oppure perché non sempre, no? Quello che facciamo poi alla fine rende. No, no, direi che piuttosto è vero il contrario, nel senso che il fatto di stiparsi a viva forza in un indumento molto stretto produce proprio l'effetto ottico, l'effetto visivo contrario. Sì. Cioè sembra quasi che l'indumento non sia in grado di contenerci completamente. Spesso lo facciamo sia per seguire la moda, insomma, la moda più recente è stata quella dei fuseau. E un altro capo su cui mi accanisco personalmente, qui lancio un appello accorato a tutte sì. le ascoltatrici, è quello della camicetta sottovuoto, effetto profilattico, che appunto, visto che nella fattispecie non serve per proteggerci dall'HIV, sarebbe meglio prendere in una taglia più vicina alla nostra. Ecco, esatto, proprio l'effetto del bottone che si apre, crea l'occhiello sul davanti di pelle nuda, quindi con squarcio sul push-up o proprio sulla sì, pelle. Che non ci piace. Dottoressa Rotta. Trovo che ognuno può portare quello che vuole, basta che sia conscia del fatto che non deve stare, per esempio, per 10 ore di seguito, seduta alla scrivania, con le gambe incrociate, con gli stivali, i jeans dentro lo stivale e sì. sotto degli elastici che strizzano ovunque, magari con un po' di pancetta. Vabbè. Dottoressa, la saluto, la ringrazio per essere stato con noi, ringrazio Cinzia Felicetti per i suggerimenti di moda, per essere alla moda ma soprattutto comode e anche belle. Grazie, grazie, ci sentiamo presto, buona giornata. Sì, buona giornata a voi. E adesso, a proposito di riposo, occupiamoci di quello della nostra anca. Non scherzo, perché anche questa articolazione si stressa e alla fine si ammala. Il conto che arriva può essere salato. È meglio quindi evitare di farla lavorare troppo e soprattutto in condizioni difficili. Ci aiuta oggi il dottor Filippo Randelli del Centro di Chirurgia dell'Anca del Policlinico San Donato Milanese. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Sì, oggigiorno siamo a conoscenza di nuove patologie dell'anca che possono essere peggiorate da una pratica sportiva non sotto controllo. Mi spiego meglio. Ci sono delle piccole alterazioni proprio a livello del femore o dell'acetabolo, entrambe queste ossa compongono appunto l'articolazione dell'anca. Ebbene, queste piccole alterazioni che, se non sottoposte a stress, possono portare la nostra anca a una lunga vita e prospera, se sottoposte a stress, quale può essere la corsa? Degenerano l'articolazione in maniera molto precoce. E che cosa avvertiamo, dottor Randelli? Come possiamo renderci conto che la nostra anca è stressata? Questa è una bella domanda, perché qualsiasi sportivo occasionale che magari d'estate, magari per dimagrire, si mette a correre, alla fine della corsa o la sera stessa del giorno in cui ha corso avrà dolore un po' dappertutto. Classico il dolore muscolare. Ecco, il dolore dell'anca è un dolore un po' particolare, è un dolore a livello spesso inguinale, ma che può avere una irradiazione che dall'inguine va al ginocchio e che può essere esacerbato da dei movimenti quotidiani, quali per dire accavallare le gambe. Se lei vede una persona con un dolore all'anca, classicamente non accavalla l'anca che fa male. Inoltre, gesti quotidiani come mettersi le calze possono iniziare e poi diventare impossibili, proprio perché l'anca malata blocca la sua articolarità. Lei ha parlato della corsa, che in soggetti non allenati e che non siano quindi preparati a questo sforzo può essere un nemico della nostra anca. In alternativa alla corsa, che cosa possiamo fare per mantenerci in forma, rispettando quindi il riposo dell'anca? Ma sicuramente l'anca, come tutte le articolazioni degli arti inferiori, sono a riposo se messe in acqua. Quindi il nuoto, soprattutto a stile libero e a dorso, è sicuramente uno degli sport che meglio può fare a queste articolazioni. La rana, invece, che è un'articolazione, come si può ben capire, in cui è un tipo di nuoto in cui l'anca viene mossa in modo circolare e in modo anche stressante, spesso provoca dolore in chi è affetto da patologia dell'anca. Grazie dottor Randelli per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Bene, per oggi è tutto, io come sempre vi ringrazio per essere restati in nostra compagnia e vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Vi aspetto, buona giornata da Nicoletta Carbone.